Perché dimentichi anche me. Se tu non vuoi più amar nessuno, vieni a stringere la mano che ti legava un giorno a me. Le lacrime che ho versato per te sono lacrime d'amore per me. T'amo e t'amerò, perdutamente t'amerò, finché il mondo vita avrà, finché il sole luce avrà, finché vivrò, perché io voglio averti solo per me, sempre, sempre, sempre, solo per me. T'amo, t'amo e t'amerò, perdutamente t'amerò, finché il mondo vita avrà, finché il sole luce avrà, perdutamente t'amerò. T'amo e t'amerò, t'amo e t'amerò. T'amo, amor, t'amo, t'amo e t'amerò, perdutamente t'amerò, finché il mondo vita avrà, finché il sole luce avrà, perdutamente t'amerò, t'amo e t'amerò, t'amo e t'amerò, t'amo e t'amerò. Tamo e tamero.